hanno buttato giù un muro. No, sono entrati, hanno mobilizzato, poi hanno preso, sono andati via. Basta, la maniera più idiota. Cioè, non si permette più tempo. No, ma niente. Sì. Cosa hanno fatto? Delle tele a Museo di Castelvecchio. L'anno scorso siamo andati una bambina a vederlo, quando la prima domenica del mese, che costa un euro. Ah, certo, sì. È un po' pesante come visita. Sì. No, da quello che ho letto sul giornale pare che sia andata così, cioè hanno bloccato, immobilizzato. Sono scappati con le tele così come un paio. Hanno preso, sono usciti. Sì, tipo occhi di gatto. Sì, cioè, correvano per via Mazzini con la tela. È incredibile. È un grosso colpo, proprio una tragedia. Vabbè, allora riprendiamo e veniamo al tema degli ambiti sociali di indagine. Come scegliamo i criteri, cioè come scegliamo i soggetti da includere nella nostra ricerca? Quali sono i criteri per includerli nelle nostre indagini relazionali? E quei criteri sono fondamentalmente quattro. Il primo criterio è il criterio dell'affiliazione. Cosa intendiamo con affiliazione? Partecipazione. La partecipazione, la, esatto, la, il coinvolgimento, il fare parte di. Si comprendono nel reticolo coloro che condividono un tipo particolare di affiliazione, per esempio l'iscrizione a un'associazione, l'appartenenza a un consiglio di amministrazione, gli esempi che abbiamo fatto prima, ad un gruppo di lavoro, ad una classe scolastica, la condivisione di un canale fluviale di comunicazione, che è l'esempio limite che abbiamo fatto vedere prima. Si trascurano quindi i legami con soggetti esterni all'ambito di affiliazione. In questo caso noi chiudiamo il cerchio rispetto ai soggetti che vogliamo intervistare e ci concentriamo solo su di essi e sulle relazioni che esistono tra loro. Questo è chiaramente un criterio che produce come esito la full network analysis. Ok? Quindi scegliamo i soggetti che appartengono a qualcosa. Il secondo criterio è il criterio sperimentale. Che cosa vuol dire sperimentale? Oh, prima di addentrarci sul criterio, io vorrei un po' spendere due parole con voi sulla ricerca sperimentale, perché la ricerca sperimentale è una ricerca che può essere molto importante in ambito sociale e anche nella, e io direi in modo particolare, nelle condizioni di emergenza. Questa è la mia idea e la voglio un po' sviluppare con voi, ok? Allora, l'ambito di affiliazione, il criterio di affiliazione nella ricerca in ambito di emergenza può essere utile se voi avete delle informazioni su una qualche forma di condivisione tra i soggetti tra i quali volete studiare. Però io immagino che non sia molto semplice avere questa informazione esatta. Invece può capitare che si utilizzino aiuti, forme di aiuto parzialmente diverse, che si possa cercare di capire di volta in volta che incidenza queste hanno sulla produzione dei legami tra le persone. Perché è importante dal punto di vista del disegno della ricerca questo? Perché, come le ricerche in ambito d'emergenza mostrano, alcune configurazioni relazionali sono più efficaci nel sostenere i soggetti. Il punto è questo, che l'aiuto complessivo non può fare a meno della dimensione relazionale, perché la struttura esercita un'incidenza sulla riuscita di quello che stiamo facendo. Ok? Qual è l'idea della ricerca sperimentale? Avete, se, Avete, qualcuno ha un'idea di che cosa sia la ricerca sperimentale? Cos'è secondo lei la ricerca sperimentale? Ma dal punto di vista generale. Cioè, è una cosa, fatta in un modo la ricerca sperimentale. Poi, è una ricerca secondo me fatta a provare qualcosa nel mondo di nuovo per poter far sì che dopo possa essere condiviso o dopo trasmesso agli altri. Cioè, una qualcosa che ad esempio non c'è e provo a crearlo a sperimentarlo in maniera tale da avere un dato effettivo da proporre agli altri per creare una specie di nuovo sistema, un nuovo lavoro, un nuovo modo di pensare, così via. Cioè lei dice la proposta della novità in questo senso? No, significa secondo me andare a sperimentare per avere dei risultati da poter condividere con gli altri. Faccio un esempio, ricerca sperimentale nell'ambito medico. Trovo un sistema per, non so, scusate male se lo dico, per poter far sì che le persone possano essere guarite dai tumori e di conseguenza questo è un risultato che dopo devo andare a condividere, approfondire perché è un punto di partenza. Allora, è sicuramente un punto di partenza, però la ricerca sperimentale, se posso banalizzare un discorso, è fatta per vedere se uno stimolo funziona, cioè se produce dei risultati oppure no. Ok? Quindi in ambito medico, farmacologico, eccetera. Cioè, questo è il senso della ricerca sperimentale. La ricerca sperimentale è una ricerca sul nesso tra lo stimolo introdotto, la modificazione artificiale introdotta dal ricercatore e la reazione dei soggetti. Ok? Per questo l'unico modo per valutarla è prendere due gruppi il più possibile simili rispetto alle caratteristiche ex-ante, rispetto alle caratteristiche che vogliamo studiare, dare, somministrare uno stimolo ad un gruppo, che è il gruppo sperimentale, lo stimolo, e all'altro gruppo no, gruppo sperimentale, gruppo di controllo. Se dopo un tot di tempo questi due gruppi sono significativamente, cioè statisticamente, significativamente dal punto di vista statistico, diversi rispetto agli effetti, vuol dire che forse dipende dallo stimolo che io ho dato, anche se non è sempre detto. No. Però lo devo sempre fare a paragone su due gruppi. Esatto. Non lo posso mai sperimentare su un solo gruppo. La ricerca sperimentale prevede il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. Ci sono anche dei modi per capire, per esempio studiare i cosiddetti l'effetto placebo. Ah, sì, d'accordo? Sì, sì. Lo stimolo produce un effetto, ma lo produce anche nell'altro perché i soggetti rappresentano, insomma. Però diciamo che semplificando, il senso della ricerca sperimentale è questo, ok? Anche in sociologia è utilizzata la ricerca sperimentale, d'accordo? Non come nell'ambito medico, quindi noi abbiamo. Questo vuol dire, per esempio, quando si dice che di alcuni farmaci si sa che funzionano, ma non si sa perché funzionano. Qual è il meccanismo che producono e attraverso il quale i soggetti superano meglio una situazione di necessità di malattia? L'esito è giustamente collegato al fatto che funzionino o meno, cioè dall'indagine sperimentale, che non ti dice qual è il meccanismo, ma ti dice che una cosa funziona e l'altra no. Dopo il meccanismo ti serve un altro tipo di ricerca per capire qual è, d'accordo? Allora, nell'ambito della network analysis, avere in mano la possibilità di sostenere dei soggetti con delle risorse. Chi fa intervento, che cosa ha in mano? Se non le risorse, decide come darle queste risorse e come usarle. Allora noi possiamo avere in mente che i soggetti siano dei contenitori di risorse, dei contenitori separati nelle quali noi mettiamo delle risorse, oppure che siano delle reti che interagiscono tra di loro, attraverso questa interazione usino meglio o peggio le risorse che noi diamo loro. Perché se li usano meglio, c'è anche il caso che servano meno risorse per ottenere un risultato positivo, o se vogliamo che con la stessa quantità di risorse si riesca a fare meglio usando in senso buono, non economicistico, diciamo così, non sfruttando, ma usando le relazioni. Perché se la letteratura ci dice che certe relazioni funzionano meglio, non ce lo dice perché le collega delle risorse. Ok? Allora, se noi abbiamo delle risorse e proviamo a usarle, a investirle dentro una rete strutturata in un certo modo, e non lo facciamo all'interno di una rete diversa, possiamo vedere che effetti produce quella rete utilizzando quelle risorse. Oppure possiamo modulare l'investimento di risorse e provare a vedere se una rete funziona e un'altra no. Come? Investendone meno e vedendo se a fronte di un minore investimento abbiamo, rispetto a un gruppo, che può essere un gruppo di controllo, abbiamo uno standard di risorse da investire. Sappiamo che però un gruppo ha un tipo di situazione strutturale che secondo noi funziona meglio per la gestione delle risorse e investiamo di meno all'interno di quel gruppo rispetto al gruppo di controllo. Se dopo 2 mesi sono allo stesso livello o addirittura questo ha un livello di benessere medio percepito più alto rispetto all'altro, vuol dire che abbiamo trovato una relazione tra un certo modo di essere della rete e l'utilizzo delle risorse. Ok? Quindi il modello della ricerca sperimentale, sul quale io in genere, quando presento in senso generale i criteri di scelta dei soggetti, non insisto mai più di tanto, perché in ambito sociologico la ricerca sperimentale c'è, ma è molto specifica rispetto ai settori. Mi pare invece che di fronte a un operatore che ha una indubbia situazione di potere nel momento in cui può attribuire delle risorse e gestire l'attribuzione delle risorse, questa strategia possa essere molto utile, perché può consentirci di capire se ci sono delle reti più capaci rispetto ad altre di usare meglio le risorse. Che cos'è che non varia qua? Non variano le risorse, ad esempio, ciò che varia è la rete. E il ricercatore può modulare in qualche modo il suo intervento, l'operatore barra ricercatore, in questo ambito. Però allora nel momento in cui riesce a capire quale rete funziona meglio, potrebbe avere uno strumento per creare quella tipologia di rete. Allora veniamo a quello che diceva il suo collega prima. Esatto, una volta che tu hai imparato, che diciamo si è appreso dalla pratica che un certo tipo di rete funziona meglio, allora si può provare a replicarla, e se dopo averla replicata o favorirla in qualche maniera i risultati sono risultati positivi, evidentemente si ha una validazione su un ampio raggio, ampia scala di quello che abbiamo visto a livello sperimentale, e in questo senso, d'accordo? Cioè non vedrei tanto l'esperimento come una prova, proviamo soltanto qualcosa di diverso, ma in ambito diciamo di ricerca è un modo particolare di fare ricerca. Molti degli indici statistici che noi usiamo derivano dall'indagine sperimentale e prevedono per esempio il confronto ex ante di alcune caratteristiche della popolazione. Se tu vuoi capire se un mangime, no, fa sviluppare maggiormente la massa grassa a una specie particolare di bovino, diciamo così, quando lo testi devi prendere 2 gruppi che siano il più possibile simili, cioè stessa razza, stesse caratteristiche, stessa età. Allora ceteris paribus, l'utilizzo di un mangime invece che di quello tradizionale produce degli effetti, ok? Ora, mutatis mutandis, è questo un po' in mente che deve avere come operatore chi usa in sociologia la ricerca sperimentale, che viene chiaramente dall'ambito delle scienze biologiche, delle scienze naturali, biologiche. Però il fattore tempo come lo mettiamo? Cioè? Che si può dire? Che in quel contesto magari emergenziale non hai magari la fase di poter sperimentare, perché ti devi più concentrare su risolvere il problema. No, allora io il fattore tempo lo guarderei così. Cioè, è chiaro che probabilmente lei non sarà l'unica a dover intervenire. Ci saranno anche altri che non utilizzeranno questo tipo di approccio o di questo tipo di attenzione. È chiaro che intanto si guarda la letteratura rispetto alle configurazioni più interessanti, dopodiché il confronto lo si farà rispetto a chi non ha prodotto o utilizzato un certo tipo di rete per gestire una stessa quantità di risorse rispetto ai soggetti che sta seguendo. Quindi è chiaro che non si può prevedere una ricerca, ma in qualche modo dobbiamo utilizzare questo, un approccio scientifico per la conoscenza del mondo che abbiamo di fronte, che per quanto possa essere utilizzato è sempre una cosa diversa, non sarà mai perfettamente identico poi dopodiché con l'esperienza ciascuno di noi si costruisce un suo bagaglio, no? Come si diceva prima, di competenze. Però è chiaro che se lei ci prova nel frattempo gli altri non lo fanno e ci sono delle differenze, può capitare, può essere perché sono speciali i soggetti che ha di fronte. Però il discorso dell'emergenza è che rispetto al ceteris paribus è molto forte, cioè veramente crea a zero tante differenze che esistono tra i soggetti, condividono tutti la stessa situazione di necessità. Dopodiché, e quindi è per questo direi che la ricerca sperimentale è particolarmente anche facilitata da questo tipo di contesto. Allora, se si è facilitata, si può utilizzarla per il senso che ha, cioè capire che relazione c'è tra quello che tu fai come operatore e gli esiti che produce. Quindi il gruppo di controllo può essere un collega che opera in maniera diversa, che magari non prevedono un utilizzo delle reti nella gestione delle risorse, ok? Faccio un esempio per assurdo, no? D'accordo? Voi avete una certa quantità di beni, potrete decidere di dividerle equamente per tutti, ok? A prescindere dalle reali necessità, per il semplice fatto che una testa vale una porzione uguale di quel tipo di risorse. Oppure potrete decidere di scegliere un livello minimo per tutti, utile diciamo tenersi, no? A soddisfare i beni primari, e poi di dare ai soggetti che avete riconosciuto come mediatori all'interno della rete, coordinatori, eccetera, le altre risorse perché le distribuiscano. Questo è un modo diverso, è un modo che usa le relazioni, d'accordo? Produce dinamiche di potere, differenziazione all'interno, però può dare dei risultati forse più adeguati, perché magari arrivano a maggiore quantità di risorse soggetti che ne hanno più bisogno rispetto ad altri, dove invece sarebbe stata in parte non utilizzata, d'accordo? Quindi voglio dire, avere a che fare con le relazioni e metterle dentro come ingrediente, utilizzando il criterio sperimentale, ci consente di farle emergere proprio come nella pragmatica, non solo nell'atto della conoscenza della realtà, no? Però è una ipotesi, poi chiaramente sarebbe interessante vedere. Ecco, ma voi dovrete fare un lavoro di tesi alla fine di questo, vero? Immagino. Non dell'esame, alla fine del corso di laurea, sì. Lei non lo sapeva? La tesi in laurea, sì. Perché mi dici questo? No, ho detto, voi dovete fare, stavo ragionando per la tesi. Dopo lei ha reagito in maniera stupida. No, ho detto, pensavo che lei magari volesse una tesi sul suo esame. No. Non sono arrivato a questo livello di sperimentazione. Andiamo a vivere in tenda per qualche periodo. Però magari noi andiamo in contesti. Perché non andiamo a vivere in una casa? No, perché dobbiamo uscire dal contesto. Avete già creato una situazione interattiva, un luogo, eccetera. No, quello che voglio dire è che se farete una ricerca su una situazione che preveda un intervento, una ricerca diciamo così empirica, applicativa, io proverei al limite, anche se non è una tesi in sociologia, ma è una tesi nella materia X, a prevedere una parte di questo per vedere come va, come funziona, se produce dei risultati oppure no, e soprattutto come reagisce rispetto alle altre competenze che avete già, perché molti di voi ce le hanno già ben strutturate rispetto a questi temi, e a quelle che apprenderete nel corso degli altri. Purtroppo, secondo me, nella fase sperimentale è giusto il fatto che lei sta dicendo che si crea lo stimolo per vedere un attimo l'effetto, quindi di conseguenza per provare a vedere un attimo anche la suddivisione dei gruppi, così. Però dopo, nel momento in cui, secondo me, nella vita c'è qualcosa di sperimentale, si vedono un sacco di fattori che limitano in qualsiasi momento la sperimentazione. Ma l'idea è che io ho una sensazione proprio che la sperimentazione sia qualcosa che va più a ledere il sistema, perché magari scardina qualche meccanismo. Lei dice questo va a prescindere dall'ambito specifico. Per esempio, se dovete testare un nuovo modello di intervento. Qualcuno si inventa che da domani mi vengono in mente le case farmaceutiche. Da domani, bevendo 2 litri di acqua non ho più mal di testa. Il produttore di aspirine. Sperimenta questo, l'effetto dal fatto che bevendo 2 litri di acqua non c'è più il mal di testa, la cosa viene condivisa, il produttore di aspirine dovrà comunque andrà a essere preso da questa sperimentazione. Essendo reso da questa sperimentazione, secondo me, a questo punto qua interverranno dei meccanismi che andranno. Sì, però scusi, ma ti faccio una domanda più. Vediamo con Torte, però qualsiasi situazione io lo vedo. Nel momento che qualcuno sperimenta, ci sono sempre dei fattori che non lasciano proprio il campo per la sperimentazione. Secondo la fuga dei cervelli, io lo vedo così. Tu sperimenti di qualsiasi ambito, sì. Diceva qualsiasi ambito, sì. Non ha specificato l'ambito. Un modello organizzativo. Ma nell'ambito sociologico è ok, ma io parlo della sperimentazione in generale. Se non ci fosse la ricerca sperimentale, non esisterebbero la maggior parte delle culture che esistono adesso. Ma sono convinto di questo. Scusa, le faccio una domanda in ambito di intervento. I modelli che lei utilizza quando coordina l'intervento dopo un evento catastrofico sono uguali a quelli che si usavano negli anni 50? O sono cambiati? Sono cambiati perché sono portati avanti con la tecnologia, dei nuovi sistemi, anche con tutti questi criteri di studio. Ma di per sé tecnologia, cioè se la tecnologia la mettiamo, ma la usiamo. Però cioè, io parlo ma stai sperimentando però con l'esercizio. Allora, vediamo il caso che adesso faccio una sperimentazione di venti di macchine che vanno ad acqua. Ok. Faccio lo stimolo vuol dire l'invento delle macchine che vanno ad acqua, questo l'effetto è che le macchine con l'acqua vanno. Ma non è la ricerca sperimentale questa, Cioè non è la ricerca sperimentale, lei inventa un meccanismo, inventa un motore che funziona con l'acqua, ma sì. Non è ricerca sperimentale, cioè non tutta la ricerca è ricerca sperimentale. La ricerca sperimentale è quella che prevede il test su una certa quantità di oggetti di lo stimolo che lei produce, d'accordo? Quindi che potrebbe non essere neanche positiva, cioè perché potrebbe anche non essere positiva, potrebbe anche non essere positiva, però non è un esempio di ricerca sperimentale, secondo me. Un esempio di ricerca sperimentale nell'ambito della protezione civile è utilizziamo nell'ambito di un certo tipo di evento catastrofico un modello nuovo che non altro non usiamo e questo funziona meglio di forse in ambito della protezione civile degli ultimi anni che è più all'avanguardia è creare un sistema di resilienza della popolazione. Ma ha prodotto degli effetti positivi sulla popolazione? Sì, e questo sistema sta andando avanti giorno per giorno per far sì che possa avere sempre più piede, perché alla fine vuol dire far sì che la gente possa convivere con i rischi, imparando i rischi, quindi stimolo, effetto, capire cosa fare nel caso succeda questo. E quindi cosa succede? Se io conosco i rischi che ho, so anche cosa fare nel caso succeda questo. Ad esempio i giapponesi quando capita il terremoto non è che vanno nel bagno, sanno cosa devono fare e poi applicano delle procedure. Questo qua è tutto quanto una cosa dovuta a una serie di esperimenti, di stimoli, di effetti. E nell'ambito della protezione civile la resilienza è uno dei punti cardini dal punto di vista del... Cioè, però per fare una ricerca sperimentale in questo ambito si dovrebbe dimostrare che dopo l'evento catastrofico X, dove è stato fatto quel tipo di formazione, effettivamente cioè abbiamo meno morti. Ma è classico, cioè, il classico infatti è quello di andare a trasmettere nelle persone, nelle scuole, nella gente, nella cultura di protezione civile e andare a segnare tutti i criteri di autoprotezione. No, sono due cose diverse. Cioè, la formazione è una cosa, no? Ed è chiaro, è quasi tautologico, se noi insegniamo ai soggetti a tenersi, a sopravvivere in situazioni di necessità, a convivere con una dose per quanto minima di rischio, eccetera, allora facciamo formazione, però la ricerca sperimentale dice, per fare una ricerca sperimentale su questo bisogna dimostrare che dove questa cosa è stata fatta ci sono stati meno morti rispetto a dove non è stata fatta, perché per il fatto che diminuisca il rischio personale, se lo si vuole vedere con la ricerca sperimentale bisogna prevedere la comparazione tra un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, okay? Uno degli esempi però la formazione che è una cosa straordinaria non è di per sé ricerca, capisci? Ma uno degli esempi che facciamo spesso è questo: quando è capitato lo tsunami, sì, una bambina di 6 anni sulla spiaggia di Phuket, dove c'era andato a scuola, ha dato l'avviso alle persone che quando è stato a scuola i terremoti, ha fatto capire cosa era l'effetto del terremoto e lì sono salvate un sacco di persone. Certo. Quindi imparare a conoscere le cose e chiedere le cose fa sì che ti possa anche salvare la vita. Su questo non ci piove, no, su questo non ci piove. Io non è un modello sperimentale. Però questo voglio dire è un'attività di formazione utile che salva la vita delle persone, è importantissima, cioè è sicuramente uno stimolo, no? Esatto. È proprio un'attività di educazione, di formazione. Esatto. Importante, fondamentale, eccetera, d'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso una ricerca sperimentale sì, si potrebbe fare, però se non si trova che questi soggetti reagiscono meglio rispetto agli altri, forse c'è un errore nella ricerca, io la vedrei così, sì, d'accordo? No, aspetterei proprio che succedesse questo. Torniamo a quello che diceva il collega, ci possono essere anche delle ricerche sperimentali negative. Ecco, lì si tratta di, per esempio, come gestire un certo tipo di risorse in un modo invece che in un altro, in un modo innovativo, in un altro invece siamo abituati a fare in quel modo lì, vogliamo vedere se produce dei risultati che non ci aspettiamo di per sé, perché siamo in una situazione in cui i soggetti non sono stati formati, non sono formabili, interveniamo ex post e li dobbiamo aiutare, no? Allora capire quali sono i modelli, lì forse dove è meno prevedibile a priori il meccanismo, nei casi che lei fa, di assoluto funzionamento, però è anche altamente prevedibile che i soggetti che sono più formati, eccetera, reagiscano meglio e producano un bene comune per tutti gli altri, no? Dove questo non è e serve una ricerca per capire ex post che cosa succede, allora la ricerca sperimentale secondo me può essere utile. Beh, basta, cioè, questa è una ricerca che ho fatto personalmente dopo il terremoto, sì. Quale terremoto? Dell'Aquila. C'erano tutti quanti i campi che avevano tutti quanti la propria cucina da campo che dava da mangiare alle persone del campo, quindi agli sfollati. C'era una serie di campi, diciamo, giù nel terremoto dell'Aquila. Mi sono posto il quesito di dire, meglio avere una cucina in ogni campo che dà da mangiare ai propri sfollati o creare un campo cucina che distribuisce i pasti a tutti gli altri? E quindi andando a ottimizzare le risorse che arrivano utilizzando sistemi nuovi, avendo proprio delle persone che fanno i pasti e poi li distribuiscono. È chiaro che però il criterio di lavoro della cucina in ogni campo è un qualcosa di nuovo, di vecchio stampo, una procedura vecchia, un sistema rodato che funziona sempre così, sì. Ed è sempre funzionato così. L'altro è qualcosa di innovativo per capire un attimo se si potrebbe fare. Per vedere se funziona bisogna dividere in due il territorio nel quale stiamo operando, okay? In uno si fa un campo cucina, sì. Nell'altro invece si mantengono, e vedere se dopo un certo periodo di tempo, in base a dei modi per misurare la soddisfazione, l'efficienza, con degli indicatori particolari, ci sono delle differenze significative tra questi due. Questa è un'idea che è chiaro, però è da capire un attimo quale poteva essere. No, era proprio questa, perché volevo già dire che questo è un esempio di esperimento, quindi attivare quello che lui pensava è questo proprio lo esperimento, così perché così trovi quelle più efficienti. Quindi devi avere pari risorse, pari personali, pari, allora riesci poi a comparare se funziona. Ma è chiaro che l'esempio che fa il vostro collega è un esempio di straordinaria mobilitazione, perché gestire i pasti è immagino che sia per capire perché si era verificato un problema di gestione di questo tipo, cioè è una cosa che dopo si è riportata comunque anche negli altri eventi, in Emilia così via. Quindi avete provato papà, a gestire così dopo? Sì, c'era la possibilità di farlo, fuorilmente si riusciva a fare con la distribuzione dei pasti, un certo sistema, utilizzando sistemi, non dico tipo catering ma altre cose, però quindi si andavano a impiegare meno risorse, però magari del resto. Come è andato alla fine? C'erano degli effetti positivi dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse, perché venivano ottimizzate. E c'era un altro effetto positivo che era quello dal punto di vista della gestione, diciamo anche della distribuzione, nel senso che capitava che da quel punto di vista lì si poteva comunque sia avere una gestione ottimizzata, nel senso che facevano, non so, pentoloni di pasta asciutta per dirle, e di conseguenza dopo non andavo a avere degli sprechi, rimani che avendo un campo piccolo così. Di riflesso c'era un altro problema, che era un problema che si era verificato in una situazione diversa, che era quello che magari in certi campi c'erano delle etnie diverse, un sacco di problematiche dal punto di vista della gestione del cibo stesso. Uh-huh. E questo e quindi, però, siccome questo produce una maggiore differenziazione, c'erano più, diciamo, per dire, faccio un esempio, se io avessi un campo di gestione cucina, io potrei avere tutto un sistema di gestione dal punto di vista anche energetico per i frighi, per questo prato, per mantenere, diciamo, anche il cibo commestibile. Sì. Invece di avere in ogni campo il suo frigo e così via, quindi è chiaro, quella lì sarebbe una sorta un po' di gestione. In un certo senso si fa già così, perché ci sono dei campi tipo all'Aquila, che erano tipo quelli della Croce Rossa, che erano campi logistici che fornivano logistica a tutti gli altri campi. però all'interno di questo campo non alloggiavano sfollati, alloggiavano chiaramente persone, solamente operatori. È un sistema che comunque si sta sempre testando. Però con dei problemi. Ci sono dei problemi, no, con dei problemi collegati alle differenze di che abbiamo trattato. Diciamo che nel gruppo dove noi raccogliamo tutti possiamo creare anche dei nuovi reti, nuove conoscenze. Esatto. Però questo è un modello, diciamo, sperimentale sull'organizzazione. Sì. Per cui lo applichi sulle risorse che devi impiegare per organizzare un determinato servizio. Però dall'altra parte lo devi studiare anche che effetto ha l'organizzazione in un modo, diciamo, centralizzato con la distribuzione tipo catering rispetto alla cucina delocalizzata sulla struttura della società che c'è lì. Perché uno potrebbe essere più comodo da un punto di vista dell'operatore che deve organizzare il servizio. Da un punto di vista di costruzione delle relazioni e rimettere insieme una popolazione sparsa, la prima settimana potrebbe andare meglio una cosa, ma poi se devi ricreare il contesto, le relazioni, il fatto di avere una cucina lì dove puoi impiegare anche la popolazione nel servizio di lavaggio pentole, piuttosto che ricrei un contesto di comunità. Il concetto è leggermente diverso, è che inizialmente tu parti con una procedura che è quella della cucina per campo, poi i campi rimangono, levi le cucine e fai un campo cucina, e allora la comunità c'è comunque, il pasto c'è comunque, però la distribuzione, quello che volevo dire è che esempio, le faccio un esempio. Gli alpini, dico una cosa per campo di discorso, gli alpini sono conosciuti per far da mangiare e hanno le cucine per quel che riguarda, diciamo, in caso di emergenza e così via. Loro hanno un sistema di far da mangiare, e la Giovanna lo sa, che è molto consolidato, cioè loro sono delle macchine da guerra a lavorare. Se tu gli proponi, per dire, un sistema sulla rigenerazione del cibo, che sono i criteri che hanno i ristoranti adesso, perché basta chiedere. Cosa vuol dire rigenerazione? Se lei va a un ristorante, non si è mai chiesto, adesso andiamo tutti quanti al ristorante, tutti quanti insieme, siamo una classe va al ristorante e ordiniamo tutti quanti una pietanza diversa. Come fa a arrivarci in tempo uguale a tutti quanti la pietanza diversa? Se io fossi a casa dovrei prima lei prendere la pasta, fare la pasta, riprendere la bistecca, sì, passare la bistecca. Perché ci sono dei cibi che sono già o precotti o diciamo abbattuti e vengono rigenerati sul momento e in maniera tempestiva, e quindi loro riescono a buttare fuori i piatti in tempo reale, avendo pietanze diverse nel stesso momento. Non parlo di pizze, parlo di ristoranti. Sì, certo. Questo qui è un sistema abbastanza innovativo nel campo della cucina ed è quello che fanno i ristoranti. I grossi ristoranti e così via. Cercare di inculcare in persone che sono abituate a pelare le patate questo sistema è molto difficile. Sì. Nel senso che avevi la doppia gestione, non dico tipo ristorante con la cosa alla carta, però riuscivi comunque ad avere. Noi stiamo spiegando questa cosa per dire all'aeronautica militare di Verona. Le stiamo spiegando perché alla fine le famose reazioni K potrebbero partire magari con i cibi già abbattuti, messi nei sacchetti sotto vuoto e arrivare, diciamo, in una zona limite con persone che possono avere intolleranza alimentare, celiaci o altro, in modo che così tutti quanti possano mangiare in maniera diversificata andando a rigenerare il cibo con dei sistemi nuovi, però è una cosa sperimentale. Però quello che diventa lì probabilmente diventa che, diciamo, l'utilizzo della vecchia cucina intesa proprio con la preparazione dall'A alla Z del cibo diventa più una cucina che rigenera, per sapere il termine, la preparazione già standard fatta dalla cucina più grande, per cui riduci probabilmente lì, però se togli, questa è la mia personale visione. Siamo due gruppi adesso, io sono un gruppo, lei è un altro. Sì, se togli l'idea della cucina come intesa come momento di aggregazione familiare in un contesto disastrato, io dico, al di là che il cibo venga preparato lì, fisicamente lì, o rigenerato. O rigenerato perché ti arriva semilavorato da un'altra cucina attrezzata con delle linee che lavorano più veloci, sì, sì. Il togliere fisicamente l'idea della cucina toglie un punto della selezione, se si prova il mondo, sicuramente. Se tu la lettura dello stesso problema da un punto di vista. Ma perché non integrarlo? Allora, intanto io sono molto contento che emerga questo interrogativo, chiaramente di sfondo relazionale, no? Ma perché non inserire in una ipotetica analisi sugli effetti prodotti da questi modelli di organizzazione? Che capire che fine fanno le reti qua e qua, come si configurano, perché se viene fuori che un certo tipo di configurazione strutturale che è favorita qua, qui non c'è più, è favorito, questo incide, perché questi siano molto sazi, tempestivamente sazi e felicemente sazi, però si sentono complessivamente meno soddisfatti di quello che stanno facendo. Cioè diventa una cucina che non ha più relazione sul campo, perché diventa una cucina di produzione. No, ma appunto, cioè quello... Quindi l'operatore che lavora nella cucina di produzione, diciamo come fosse una grande linea che distribuisce agli altri, non ha più la relazione sul contesto, diventa una pulita da guerra che sono. Ma questo è il futuro che stiamo andando a fare, che è quello di creare dei campi logistici dove i volontari gestiscono delle cose solo senza avere gli ospiti. Questo sì, è quello sì. Che sta andando proprio il sistema. Perché dopo che ci siano dei problemi pro e contro, siamo d'accordissimo, che ci siano dei problemi. Però no, allora, comunque sia, tu fai la cucina sì. Lì, ma dall'altra parte devi avere comunque diciamo un punto. Ma c'è un punto di riferimento, c'è la distribuzione, però è stata una sbragatura relazionale. Scusate. No, comunque posso dire una cosa. Quando arrivano le 7, che sia un centro unico di cucina o tanti poli diversi, si parla sempre di mangiare. Quello è una causa effetto. Però attenzione, io adesso voglio provare a disegnare quello che sta dicendo la sua collega, perché quello che dice lei è chiaro, e sul fatto che ci possano essere delle comprovate migliorie nell'organizzazione, probabilmente non ci piove. No? Io adesso io non conosco questa tipo di faccio un esempio in ambito sperimentale. Se questo tipo di organizzazione rispetto, noi sappiamo che ci può essere un certo tipo di caratteristica strutturale delle reti, che si chiama densità, che incide positivamente sul livello di benessere percepito che hanno i soggetti. Alla fine questo io penso che sia la cosa più importante, no? Cioè, quando si fa un intervento le persone devono essere più felici rispetto a prima che noi lo facciamo, d'accordo? Perché alla fine dobbiamo vedere altre persone, ok? Noi sappiamo che dove c'è maggiore densità delle reti cresce anche il livello di benessere psicofisico, ok? Bene, allora io volevo dire che nei casi di emergenza più che essere felici, nutriti. No, scusa, posso dire, è vero, perché nelle situazioni di terremoto è un problema, forse non lo so come. Ma io credo adesso voi mi smettite se dico una cosa se non è vero. Sì, io sì, credo sì. Che nessuno negli interventi di emergenza in Italia sia mai morto di fame. Ma io l'ultimo caso che mi sono, cioè che ho visto sulla TV, che mi appartiene un po' perché sono anche io albanese, ho visto gli albanesi del 90 che sono arrivati rifugiati. Cioè io non l'avevo mai visto, l'ho sentito per TV quando ero piccolo, però ho visto una sera, non ricordo neanche a quale stazione perché non guardo molto la TV, però ho visto che gli mandavano dei cibi con l'elicottero e che non ce la facevano a dividere perché non potevano penetrare, li avevano messi in uno stadio, non potevano penetrare dentro, si sono creati i gruppi, i clan, cioè una pazzia vera. Quindi forse però nei casi di... Quello di cui stanno parlando i suoi colleghi è una situazione comune. Chiedo scusa che ho. Allora, per io mi sono posto. E comunque non c'era male da capire. Ma è chiaro, è una cosa sperimentale. Proviamo a disegnarla, però mettendoci dentro anche la caratteristica relazionale, va bene? Cioè, se si dimostra che questo modo di organizzare la gestione dei pasti coesiste con una diminuzione del livello di densità, e questo invece no. Cioè il livello di densità delle reti è più alto se si organizza la gestione dei pasti così, al di là del fatto che sia più efficiente, ok? e questa relazione vale tra queste due grandezze, noi potremmo arrivare a produrre dei soggetti che sono, come dicevo, più sazi, velocemente, eccetera, eccetera, ma che hanno un livello di benessere percepito inferiore rispetto a quello prodotto da questa situazione. Okay. No, ma io non sto dicendo che sia così, Io non sto dicendo che sia così. Io sto dicendo che, per tornare all'esempio, un esempio di ricerca sperimentale in questo ambito, che preveda anche la considerazione delle ricerche relazionali, può usare ciò che si sa rispetto a queste relazioni, misurarle qua, tenendo sotto controllo due tipi di contesti diversi. No, sarebbe molto interessante. Quello che sta dicendo lei è proprio è la cosa essenziale, nel senso che noi creiamo uno stimolo, lo stimolo dà più benefici o situazioni negative. È meglio fare questo tipo di situazione o l'altro? Dopo da lì ci sarà qualcuno che fa delle scelte. No, ma io con quello che però il fatto è che mi pongo un quesito su due gruppi che hanno un modo di gestione diverso. E aggiungiamo una cosa tipica di questo corso, che bisogna metterci in mezzo con varianti intervenienti, le relazioni. Certo. Perché se noi queste non le vediamo, per non vedere basta non fare nessuna domanda sulle relazioni, se questo pezzo qua sparisce, noi alla fine ci troviamo di fronte a un modello eccezionale dal punto di vista organizzativo e vediamo che c'è una relazione negativa con il livello di benessere percepito. Ma non capiamo perché. Perché non vediamo dove questo succede. Quando lei prima ha detto questo sistema produce dei conflitti tra etnie che vogliono che lavorano per cucinarsi pasti diversi, in un certo senso ha già dato un indicatore, sebbene non strutturale, cioè non con queste tecniche, della minore coesione sociale che per esempio può emergere in base a quello che diceva lei, e non si fa fatica a immaginare qual è il meccanismo che si produce. Quello che voglio dire però, quando si fa questo, qui ne abbiamo visto ampiamente, io vi ringrazio molto per questi esempi, che si può prevedere un disegno di ricerca sperimentale, io lo sospettavo, in ambito d'emergenza, nonostante sia un ambito molto particolare, però perché tutti partono dalla posizione di partenza uguale, lo stato è uguale per tutti, una estrema situazione di bisogno uguale per tutti, quindi è paradossalmente il contesto migliore per tenere sotto controllo le variabili, non c'è risparmio. Noi inconsciamente lo facevamo, però non sapevamo che era questo tipo allora, di quando, se lo doveste rifare, dicevo prima, se per esempio per la tesi dovete fare un lavoro su un qualche intervento che state seguendo, no? Buttateci dentro queste variabili qua, anzi vi laureate in diritto, vi laureate in public economy, anche se vi laureate in materia che non è la sociologia, provate a mettere dentro queste grandezze per vedere in che modo fittano col resto, cioè con il livello di benessere, di felicità percepito dagli individui. Perché intanto producete una informazione interessante su fenomeni che sono ancora molto poco studiati, molto poco conosciuti dal punto di vista degli effetti strutturali che delle relazioni, ma poi perché probabilmente potete avere qualche indicatore per capire meglio come funzionano le cose all'interno. Quindi grazie perché ti sarò la situazione era diversa perché lì avevi la gente disastrata, però erano bloccati nei loro contesti, per cui tu non potevi portare il pasto, facevi la distribuzione dei liberi con dei punti di non è che ho fatto sperimentare su detto così, però se tu ci pensi, il primo caso che ho fatto io facendo un paragone è lo stesso caso che capita negli asili dei bambini, che capita negli ospedali, perché alla fine comunque sia, non è che tu hai una relazione, perché tu ordini il pasto la mattina e poi la sera, però se tu hai preso la bistecca e io ho preso la pasta, sì, ma infatti, tu vai a sentire i bambini nella messa scolastica, buttano via il mangiare, ma io ci sono stata tre volte e buttano via questo, il mangiare. Però il sistema, diciamo, perché io ho supposto un quesito per capire se quello è... Beh, è un grande dibattito cittadino questo, Cioè è una cosa che si discute su tutti i giornali. No, però, le scuole con le mezze dentro, ho capito bene, con le mezze all'interno, e invece la grande distribuzione. Quello che capita così, vero? Non è che io però direi. Ho capito, però se vogliamo fare un paragone un po' paradossale, potrebbe essere anche quello che ha detto lei, giustamente. Diciamo che. Però per dirti la grande distribuzione funziona meglio all'interno, diciamo, dell'organizzazione dei volontari, perché sono via. Questo secondo me è proprio. però nell'ambito del, nell'ambito adesso, al di là del fatto che si parla di scuola eccetera, no? Però non è che questi sono, diciamo, non è che i bambini vivono a scuola, d'accordo? Cioè non hanno inizio e fine anche fisicamente nella comunità, non è la comunità o non solo la comunità scolastica, no? Qui invece abbiamo veramente a che fare con situazioni dove ogni tipo di attività è localizzata sul territorio di cui questi in quel momento vivono in una situazione diversa. Impieghi anche la popolazione nel fare impieghi la popolazione, cioè per esempio scolastico, sì, ho capito il discorso della mensa centrale, piuttosto che le mense particolari, però non è che l'esperienza di vita dei bambini, di chi va a scuola, inizia e finisca a scuola, è una parte nel corso della giornata. Per dirle, questo è un po' anche, sì, se vogliamo fare un paragone a livello industriale, questo è lo stesso paragone delle aziende che non fanno la produzione in loco, ma si affidano a aziende di logistica che portano la produzione e dopo loro smistano solamente il peso per si è lavorato. A livello industriale è così, se non c'è la produzione in loco, la produzione è fatta altrove e qui c'è solamente un discorso di distribuzione logistica. Sì. Diciamo che lì l'analisi strutturale c'entra dal punto di vista organizzativo, però io torno a insistere sul fatto che quello che di cui noi parliamo qua è la dimensione delle relazioni sociali e il benessere che questo produce, perché certo. È chiaro che l'esempio della distribuzione industriale e della produzione è un po', diciamo, ci sono quante delle reti organizzative, delle reti di commercio, delle reti di scambio, d'accordo, però è chiaro che gli esempi che noi prendiamo qua riguardano in maniera soletta le persone, o anche gli organismi come cooperano, non saggio che nel programma di esame. Quindi relazioni, non legami di interesse che sono nelle aziende. Per esempio questo, cioè non necessariamente il criterio della produttività, dell'efficienza razionale, eccetera, è quello anche più utile tra virgolette per il benessere, cioè non si può, perlomeno non si può presupporre che lo sia senz'altro. Però se non ci poniamo il problema non potremo mai capire. Ma questo esempio che avete fatto voi sicuramente tutte le dimensioni, con l'aspetto organizzativo, l'aspetto logistico, l'aspetto delle risorse, ma anche l'aspetto relazionale, ed è curioso e interessante, e sono anche soddisfatto del fatto che sia emerso da voi, piuttosto che da me. Sicuramente la sfida sarà quella di coniugare le due cose. Ah certo. Sarà più beneficioso. Anche perché bisogna partire dal presupposto che le risorse disponibili non sono eterne e non sono infinite. Quindi se questa strategia garantisce un risparmio consistente, significativo delle risorse, magari si può, e di fronte a una situazione che dovesse essere di questo tipo, si può immaginare qualche evento a sostegno di questo tipo di attività che comunque consideri di recuperare quella tendenza ad aggregarsi che hanno i soggetti, svincolandola un po' dall'aggregazione per la produzione dei pasti, se dovesse essere più compatibile con le risorse disponibili, perché ce ne vogliono meno magari per la gestione di un servizio, d'accordo? Quindi non si tratta di partire a testa bassa, no, questo non funziona, questo funziona, eccetera. Se dovesse emergere una cosa del genere, ma questa organizzazione conviene, vabbè, allora sapete che c'è, inventiamoci qualche attività di supporto all'esito di questa indagine per fare in modo che l'effetto negativo che può produrre sui legami sociali questa forma di organizzazione di produzione dei pasti sia in qualche modo attutito e quindi ritorni ad esserci un nesso positivo, una variazione concomitante positiva tra questa organizzazione e la densità, magari con la formazione di comunità, insomma, di gioco, di lettura, di intrattenimento nel tempo libero, che abbiano un impatto economico minore, che possa essere coperto con ciò che si risparmia passando da questa forma di organizzazione a quest'altra e comunque non ne faccia sentire il peso a livello nazionale. Insomma, è chiaro che tutto è da vedere, però questo esempio, il fatto che questo esempio sia uscito sulla cosa forse più importante in ambito di emergenza, cioè la distribuzione, la produzione e la funzione dei pasti, che vogliamo dire che è importante, però il fatto che venga fuori anche qua, secondo me significa che assolutamente l'idea di fare sperimentazione per le relazioni può essere vincente. Va bene, finiamo questa parte, criterio nominalistico posizionale, se ricostruisci il tipo delle relazioni tra soggetti che ricoprono una particolare posizione sociale, quindi si trovano in posizione e si guardano le relazioni tra i soggetti che occupano un certo tipo di posizione, e poi il criterio reputazionale. Che cos'è il criterio reputazionale? utilizziamo il criterio reputazionale quando non siamo nella condizione, è simile al criterio nominalistico, ma noi non sappiamo quali sono i soggetti che ricoprono delle posizioni rilevanti, non sappiamo anzi neanche quali sono le posizioni rilevanti all'interno del contesto che vogliamo studiare. Allora ci serve un testimone significativo o più testimoni degli informatori che ci dicano quali sono le posizioni rilevanti all'interno del contesto, identifichiamo le posizioni e poi utilizziamo il criterio posizionale per identificare i soggetti tra i quali studiare le relazioni. Per questo siamo tornati, siamo usciti dalle cucine, sebbene a fatica, siamo tornati alla scelta del diciamo come scegliamo i soggetti da inserire dentro le nostre ricerche. Abbiamo visto il criterio posizionale e quello reputazionale. Questi informatori possono essere inclusi o meno nella network, perché potrebbero pure essere loro stessi portatori di una posizione rilevante. Ok? Come si possono utilizzare gli approcci e quindi le tecniche di campionamento per l'analisi delle reti sociali? Ora, il campionamento, tenete presente che noi lo tariamo sempre sugli individui, d'accordo? Sui soggetti, non sulle relazioni. Perché? Perché l'idea del campionamento qual è? Qual è l'idea del campionamento? L'idea del campionamento è che noi utilizziamo qualche criterio per scegliere una parte, un pezzo della realtà che vogliamo studiare, nell'idea che quello che troviamo sulla parte sia presente anche dentro un certo margine di errore nel tutto, nell'intero. Ok? Questa è l'idea del campione, d'accordo? Quindi per costruire un campione è necessario che ci sia un universo o popolazione di cui il campione non sarà che una piccola, piccolissima parte. D'accordo? Perché non è possibile costruire un campione delle relazioni? Perché non abbiamo la possibilità di definire l'universo delle relazioni sociali. D'accordo? Allora è chiaro che ci orientiamo sui soggetti, sugli individui, ma un campione statisticamente rappresentativo di una popolazione di soggetti non garantisce in alcun modo un'uguale rappresentatività delle loro relazioni. Perché? Perché i legami non possono essere studiati indipendentemente gli uni dagli altri. Ogni relazione infatti consiste in un fascio particolare di diversi legami, e la seconda ragione risiede nel fatto che se si estrae un campione probabilistico di soggetti in una popolazione molto vasta è altamente improbabile che tra gli strati vi siano legami di conoscenza o legami di altro genere. Nella ricerca che vi ho raccontato prima sui 307 veronesi, non è che una volta intervistati a ciascuno di questi è stato presentato l'elenco degli altri 306 estratti nelle indagini, ma lei li conosce questi? Questo non è possibile. Abbiamo studiato i personal network, il Diego network di questi soggetti, d'accordo? Ciò detto, esistono delle procedure di campionamento probabilistico e non probabilistico che si utilizzano, che consentono di identificare alcune specifiche caratteristiche delle reti sociali, quindi sono utilizzabili nell'ambito della network analysis. Perché questo è importante? Se tu volete avere un'idea della qualità dei legami, magari di sostegno, che hanno i soggetti dei quali vi state occupando come operatori, come organizzatori delle azioni di servizio, eccetera, e magari questi sono alcune migliaia di individui, potete porre il problema di estrarre un campione di queste migliaia, ok? Per studiare i legami che si trovano. L'idea è che quello che trovate per questi valga pure un po' per gli altri, d'accordo? Allora vi trovate di fronte alla necessità di identificare, per fare l'analisi delle reti, un campione di soggetti. E allora ci sono due modi per costruire i campioni. Si può costruire un campione probabilistico e un campione non probabilistico. Quali sono i pro e i contro e quali sono le differenze? Il campionamento probabilistico è sicuramente da preferirsi laddove si possa utilizzare. si ha un campione probabilistico quando ad ogni unità della popolazione compete una probabilità nota e non nulla di essere estratta. Per esempio, quando si parla del livello di attendibilità delle indagini telefoniche, al di là dell'autoselezione del campione, il grande tasso di rifiuti che c'è, eccetera, una delle discussioni, dei punti di domanda più grossi che si hanno oggigiorno sempre di più su queste indagini, è proprio sul fatto che si possano definire completamente probabilistiche. Per essere estratti bisogna avere un numero di telefono. Chi non ha il numero di telefono non è estraibile. Ok? Quindi non fa parte della popolazione, ma lei fa parte della popolazione. Allora, se lei non ha una probabilità nota e diversa da zero di essere estratta, è chiaro che questo è un problema per l'indagine. Allora, il campionamento probabilistico va a delimitare delle condizioni. La condizione riguarda la probabilità che hanno i membri dell'intero universo di essere pescati. Allora, più condizioni ho, più probabilità ho, più soggetti facciano parte dello stesso reticolo. Tutti i soggetti che fanno parte del mio universo di riferimento? No, ma non che facciano parte del reticolo. Qua stiamo ragionando su come pescarli per farmi la mia domanda. Facciano parte dello stesso sistema, dello stesso gruppo. Per esempio, esatto, se lei ha, faccio un esempio, lei ha, sa che la popolazione colpita dal disastro che voi dovete aiutare è formata da 12.000 individui, ok? Lei vuole fare una ricerca su queste persone e naturalmente identifica, diciamo, decide di fare una ricerca su soggetti che hanno almeno 18 anni, ok? È una condizione. Esatto, allora il suo universo di riferimento è dato dai soggetti che sono stati colpiti da questo evento, si trovano in condizioni di bisogno e hanno almeno 18 anni di età e diventano 9.000, per esempio, d'accordo? Ok, lei deve infilare questi 9.000 all'interno di un elenco, ne vuole pescare 500, bene, questi 9.000 devono avere tutti la stessa probabilità di essere pescati per i 500 che le vuole identificare. Questo è un esempio di campionamento probabilistico, in modo particolare di campionamento casuale semplice. Ogni elemento ha la stessa probabilità di essere selezionato, estrazione casuale. Ok? Non è soddisfatto, vuole che questo campione di maggiorenni colpiti dal disastro abbia esattamente la stessa quantità, abbia la quantità di donne e di uomini, e vuole stratificarlo proporzionalmente rispetto a come gli uomini e le donne si distribuiscono dentro l'universo. Vuole la stessa quantità di soggetti che ci sono, la stessa percentuale di soggetti che ci sono nella popolazione che hanno tra i 18 e i 24 anni, tra i 25 e i 34 anni e via discorrendo, cioè delle fasce di età. Allora lei può decidere di stratificare anche proporzionalmente il campione, cioè si identificano gli strati della popolazione e si estrae un campione che tenga conto delle proporzioni. Ok? Questo è un altro tipo di campionamento probabilistico, ma non è casuale semplice, è stratificato, cioè lei lo rende ancora più efficace, redditizio rispetto alla efficiente, rispetto alla rappresentatività, alla capacità alla capacità di rappresentare la popolazione, d'accordo? Bene, come si usano le tecniche di campionamento probabilistico nell'analisi dei reticoli sociali? Esattamente come lei non c'era, come abbiamo visto prima, per lo studio dei reticoli concentrati. Io pesco una certa quantità di soggetti che fanno parte di una popolazione, per esempio lei utilizza un software per fare un random sui 9.000 che ha, ne pesca 500, e poi studia questi 500, li identifica e a ciascuno di questi 500 lei fa le domande sulle reti personali che ha e studia quali sono le caratteristiche degli altri con cui ciascuno di questi 500 ego è in relazione, quali sono le caratteristiche dei legami che questo ego ha con tutti i suoi altri e se ci sono dei legami tra gli altri con cui ego è in relazione. Ok? Personal Network Analysis. Si studiano reticoli concentrati, cioè i 500 soggetti pescati sono formati, hanno delle reti formate da un attore focale, sono appunto i 500, ciascuno di essi, cioè l'attore inserito nel campione, che è chiamato ego, da un insieme di soggetti chiamati altri e dai legami che li collegano. Ok? Nella ricerca che facevo subito italiane, alla fine sui 1226 soggetti intervistati, adesso vado a memoria, trovammo oltre 5000 ARPA, che sono altri soggetti naturalmente. Quindi quello che non potete fare è sapere quali sono le relazioni tra i 500 che voi intervistate, bene? Però potete studiare i reticoli concentrati dei soggetti che voi pescate. È tutto chiaro? Nel campionamento non probabilistico, naturalmente, non c'è questa capacità di rappresentatività e soprattutto la possibilità, ecco, vedete, quando si, adesso semplifico molto, no? Quando si fa questa ricerca ci sono due tipi di errori: un errore campionario e un errore non campionario. L'errore non campionario è dovuto al grave errore di selezione da parte del ricercatore, tra gli altri. Ma nel campionamento probabilistico c'è anche l'errore campionario. Che cos'è l'errore campionario? L'errore dato dal fatto che invece di fare una ricerca sull'intero universo si abbia in analisi soltanto un pezzo di questo universo. Ma questo errore si può stimare se noi abbiamo identificato probabilisticamente il campione, altrimenti non è stimabile. Che vuol dire non che non ci sia, ma vuol dire che l'errore è molto più elevato. Tant'è che se le ricerche non sono probabilistiche, anche l'utilizzo, diciamo, in particolare l'utilizzo di, cioè se non c'è un'estrazione, diciamo così, l'utilizzo degli indici statistici con il livello di attendibilità, eccetera, non ha senso, diciamo così, no? Perché l'idea di cui dice che tu possa riferire all'universo quello che trovi sul campione. Quindi identificando un campione ho meno possibilità di errore. Se è probabilistico. Se è non probabilistico, chiaramente il campione funziona meno, diciamo, non ha la stessa capacità di rappresentare l'universo. Le singole unità dell'universo non hanno la stessa probabilità di entrare a far parte del campione, pure a parità di condizioni. Per esempio, per arrivare ai 500, invece di pescare casualmente dentro i 9000, la quantità dei vostri maschi, di femmine, eccetera, voi identificate alcuni testimoni significativi della realtà in cui state, per esempio chiamate i sindaci. Dovete, sì, arrivo, andiamo adesso, ci capita ogni venerdì questo, e chiedete a queste persone di raccogliere un po' di interviste. E chiaramente questi, a chi coinvolgeranno la ricerca? Coinvolgeranno le persone che conoscono loro direttamente. Non tutti avranno la stessa probabilità di essere pescati. Non tutte le donne, non tutti gli uomini, non tutti i soggetti che hanno una certa età, ma ciascuno dei soggetti che voi chiedete di, ai quali voi chiedete di raccogliere le interviste, sceglierà lui chi intervistare, chiaramente tendendo a riprodurre la sua collocazione nella classificazione sociale. Però in ogni caso questo non garantirà, se utilizzassi per esempio i miei studenti per fare una ricerca su un campione di italiani, gli studenti dei corsi qua a Verona, probabilmente il mezzogiorno sarebbe fortemente sottorappresentato, non ci sarebbero praticamente meridionali all'interno. Allora questa ricerca può essere rappresentativa del territorio nazionale? Se c'è un nesso tra la classe sociale di origine e il corso di laurea che si segue all'università e utilizzi gli studenti di un corso di laurea specifico per raccogliere delle interviste, è probabile che quelli che l'elenco che avrà alla fine di soggetti tenderà a riprodurre la classe sociale di appartenenza degli studenti che ho utilizzato. Quindi ci sono delle forti distorsioni, d'accordo? Il campionamento per quote, la versione non probabilistica, diciamo così semplificato, del campionamento per strati. Si divide la popolazione in classi omogenee, il campione nel rispetto della popolazione, ma gli intervistatori scelgono liberamente le persone da andare a contattare. Quindi la variabilità è affidata alla volontà dell'intervistatore. C'è però un caso molto interessante di campionamento non probabilistico che utilizzate nell'analisi delle reti, una cui particolare edizione, versione è utilizzata nell'analisi delle reti. Si chiama campionamento a palanga o snowball, campionamento a palla di neve. che caratteristica ha una palla di neve o una valanga? Man mano che procede, aumenta di dimensione. Allora io prendo un gruppo iniziale di persone, le intervisto e poi chiedo a queste di intervistare altre persone e così via, no? Man mano che va avanti cresce il campione, ok? Dalle quali si ottengono i nomi da queste persone, i indirizzi di altri individui appartenenti alla stessa popolazione, il limite che si perdono di individui più marginali. Vediamo. Si perdono gli individui più marginali. Più marginali, cioè quelli che hanno meno legami, perché più difficilmente saranno menzionati, no? da questi soggetti. Quindi, se una ricerca sulle marginalità è chiaro che il campionamento a valanga non funziona. Ma c'è una versione particolare di questo campionamento, e con questo chiudiamo. Quindi, il campionamento, come abbiamo visto nell'analisi dei reticoli, è sicuramente il campionamento a valanga, abbiamo appena visto, permette di aggiungere progressivamente soggetti sulla base di coloro che sono costretti in volta con tappare. Qui naturalmente il limite consiste nel fatto che la decisione di interrompere la realizzazione è arbitraria. Ma una cosa molto interessante che potreste utilizzare, magari la ripetiamo, è il campionamento small world, che si fonda su questo principio. Qual è il concetto qua? Noi identifichiamo un soggetto obiettivo, una persona precisa, e vogliamo sapere se qual è la distanza fra le persone che intervistiamo e questa persona, quanti intermediari ci sono tra di loro, ok? Si consegna un soggetto di progetto in cui sono annotati nome, indirizzo e occupazione di un soggetto obiettivo. Il ricevente annota sul libretto il proprio nome e le proprie caratteristiche e lo consegna al suo conoscente, che reputa sia in relazione meno mediata con il soggetto obiettivo, e così di seguito fino al raggiungimento del soggetto obiettivo. Ok? Qual è lo scopo di questa ricerca? Stimare il fatto che prima o dopo questo libretto arrivi al soggetto obiettivo, quindi il successo della catena, e quanto è lunga questa catena in base alle caratteristiche. Però qua studi la catena. Come? Studi la catena, bravissima, esatto. Questa ricerca serve. La catena del valore, la catena della relazione, o della interconnessione. Quanto è lunga, quanti mediatori ci sono, se arriva più o meno a destinazione oppure no, eccetera. Perché è interessante? Perché quello che è uno dei limiti dell'analisi del campionamento non probabilistico, qua diventa l'oggetto specifico della ricerca. Cioè studiare la rete che porta verso il soggetto obiettivo. Voi pensate che ricerche di questo genere hanno dimostrato negli Stati Uniti d'America che gli intermediari tra due, avete presente quali sono le dimensioni in termini di popolazione e di territorio, la dimensione media, gli intermediari tra due soggetti qualsiasi è di 5,2 persone. Se ci pensate è pochissimo, cioè per connettere me a una persona che sta a 2000 km di distanza è sufficiente, io conosco lui conosce lei conosce lui, e arriviamo al quinto, dopo 5 intermediari, mediamente, siamo nella possibilità di essere connessi tra di noi. Paradossalmente qua che potremmo essere più vicini, siamo secondo me più alti. Oddio, sarebbe interessante farlo, però un aspetto interessante di questa ricerca è che quello che appunto è un limite di questo tipo di campionamento, cioè il fatto che non sia probabilistico, è l'oggetto specifico della ricerca. Quindi se voi volete sapere per esempio chi è se pensate che un soggetto sia molto centrale dentro un gruppo che poi state studiando, testate, date dei libretti e vedete se sono direttamente connessi a questo soggetto oppure no, quanti passaggi si devono fare, se avete bisogno di identificare un coordinatore, un leader all'interno. Può essere una strategia di ricerca utile perché è proprio finalizzata a scovare questi soggetti particolari. Avete delle domande? Bene. Io vi ringrazio tanto per la consueta e potente attenzione fino alla fine, fino a che non ci vengono a chiamare. Cacciare. Puntualmente.